pensiero tu fai, ma senti quella voce dice brain fraud that and we in una società dove tutto è merce, è logico che la natura venga devastata, il vivente saccheggiato. Sfruttamento della natura, schiavitù animale e addomesticamento umano sono la stessa faccia di una medaglia arrugginita. Ma se il nemico è uno, i modi di colpirlo sono tanti. Ogni lunedì dalle 21 alle 22, Radio Possum, la trasmissione che vi seziona lo sfruttamento. Allora, una buona serata dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come tutti i lunedì alle 21.15 ormai, questa è Radio Post, una trasmissione antispecista. Di cosa parleremo questa sera? Questa sera parleremo di Green Hill insieme a Luana Martucci, una nostra ospite che è stata in udienza al processo di giugno, alla prima udienza del processo a giugno del caso di Green Hill. Va bene, allora un po' di musica e poi siamo subito in collegamento con l'ospite. Because what I really truly want is harmony with all people. And one of my favorite people, Melissa Etheridge. Something. Just go on and sing. Sing for the people. Let's hold hands for a minute. We have never well, been. Well, let's. Every other rumored or so-called lesbian. Let's start some. I can understand your dismay with that, Melissa. Just dismayed. Okay, are you ready? Come on, baby, let's get out of this town. I've got a full tank of gas with the top rolled down. There's a chill in my blood. Allora, eccoci in diretta con Luana Martucci, appunto una delle imputate per il processo Green Hill. Intanto ci senti? Sì, vi sento. Ciao. Allora, ciao, ciao, benvenuta. Ciao. Ciao, hai sentito anche gli altri? Come? Hai sentito anche le altre voci? No. Eccoci, no. Ciao. Ciao. Sì. Sì, ciao a tutti, ciao. Ok, eccoci. Allora, intanto, ciao, benvenuta. E appunto, sì, accennavamo prima che ti stiamo chiamando perché si è tenuto il 16 giugno il processo per i fatti del 28 aprile 2012 a Green Hill. Quindi intanto ti volevamo chiedere se volevi un pochino introdurci che cosa è successo intanto il 28 aprile 2012 a Green Hill, così intanto se ci volevi fare un po' una panoramica, dirci due cose, poi ne parliamo insieme. Allora, parto da un po' dalla campagna contro Green Hill per poi arrivare un po' al processo. Allora, come nasce questa campagna? Questa campagna Green Hill nasce da alcuni coordinamenti che, a conoscenza di quello che avviene là in quella zona, decidono comunque di mobilitarsi. Sono coordinamenti comunali, sede proprio del comune, oppure sono gruppi organizzati antispecisti. Questa campagna nasce con giornate in cui con le tende restano fuori, in cui cominciano a comunicare alle persone di questa struttura e cosa succede all'interno di questa struttura. E man mano questa cosa viene poi presa anche in mano dai politici, che cominciano a entrare nella situazione perché si tratta comunque di cani, e quindi all'interno del senso comune il cane è un animale a noi molto vicino, per cui diventa una cosa molto, come si dice, che influenza molto le persone. Si crea man mano una grossa attenzione, diciamo, intorno a questo caso, rispetto a questa situazione qua. Più o meno va avanti per 2 anni questa mobilitazione che vede sia dagli attendamenti notturni quotidiani a alcune azioni un po' più dirette, in cui per esempio c'è l'occupazione del tetto con le relative denunce. E un po' la situazione scoppia quando i media intervengono, e quindi quella puntata che al TG5 distrisce la notizia, che entra all'interno dell'allevamento, scuote moltissimo le coscienze delle persone, proprio perché il cane è un nostro compagno. Situazione molto diversa invece da quella che, se pensiamo, poi avviene con la liberazione di Topi e Farmacologia, in cui l'opinione pubblica non si muove rispetto a quello. Anzi, i giornali, i media poi ne parlano come un danneggiamento molto grosso della ricerca, e là l'opinione pubblica non si muove. Questo invece scuote le coscienze e cominciano a mobilitarsi molte persone e molte associazioni. Queste associazioni che si mobilitano, poi vediamo nelle fasi successive, hanno un grosso interesse a riportare tutto a sé, tutti i meriti a sé. Basti pensare che sono stati scritti 4 libri, fatto almeno un film su questo avvenimento, e non finirà, insomma. Allora, volevo chiederti una cosa. Sì. Quindi non è nata come una campagna, diciamo, solo animalista. Avevate anche una sorta, vi davano manforte anche a livello comunale già dall'inizio? Allora, tendo a precisare una cosa: io in questa campagna non ci sono mai entrata, a differenza di Morini e in altre campagne. Questa campagna non mi è interessata molto per come era gestita. Mi chiedevi, scusa? Sì, avvi nella gestione, se si può dire, che non ti convinceva? No. A me non convinceva, ma una grossa parte del mondo antispecista non era convinto comunque di come stava andando avanti questa campagna, perché era una campagna che si basava sulle petizioni, su comunque convincere la gente che non è giusto, chiedere giustizia rispetto a questo, quindi aveva un aspetto molto diverso da una campagna come Morini, che invece andava proprio ad attaccare gli interessi di tutti quelli che potevano comunque speculare sulla sofferenza animale. Sensibilizzazione, mentre voi speravate di fare una campagna più di pressione, eri più abituata a fare un tipo di lavoro più simile a questo? Sì, sì, e fuori comunque dalle istituzioni o comunque da qualsiasi entità che possa riconoscere dei diritti, no? Quindi sì, la sì, situazione era molto, molto strana. Molti del mondo antispecista non partecipavano proprio per questi motivi qua. Io ho partecipato per la prima volta in quella giornata là, e ci ho partecipato perché dopo aver visto ripetuti attendamenti notturni, diurni, ho detto bisogna andare a fare qualcosa di diverso là. Quella giornata là aveva raccolto un po' le sensibilità più eterogenee, per cui c'era dalle associazioni più istituzionalizzate tipo la LAV, Lenta, ai comitati che comunque gestivano il problema già da 2 anni, a persone che erano andate là solo perché scosse molto dalla trasmissione di Striscia la Notizia. Infatti, la situazione non sembrava assolutamente una situazione antispecista. L'inizio della manifestazione sicuramente era molto confuso. C'è stato, per esempio, una sfilata di moto prima di cominciare la manifestazione, credo un centinaio di motociclisti vestiti solo di cadaveri, c'erano più cadaveri su di loro le moto che insomma, e per cui non sembrava propensa. Sicuramente la stranezza e l'eccezionalità di questa situazione ha fatto sì che persone che non si conoscevano, molto diverse, in modo ognuno con un sentire proprio, abbia comunque deciso di scavalcare quel filo spinato e entrare dentro. Sì, infatti. Allora, all'inizio. Ah, no, ok. Sì, ti volevo chiedere se ci raccontavi poi nello specifico che cosa è successo quel giorno. Allora, è successo così. La manifestazione a un certo punto aveva un percorso obbligato che andava in un punto, in una zona rossa dove la polizia non faceva più passare. Una parte del corteo, vedendo la situazione, comunque decide di deviare verso le colline, sale per le colline e quindi arriva alla recinzione laterale dell'allevamento, che è una recinzione molto alta, e col filo spinato sopra, quel filo spinato abbastanza tagliente. Un ragazzo, più di qualche persona cercava comunque di capire come si poteva entrare. Un ragazzo ha avuto la brillante idea di usare una transenna, storgerla come scaletta. Questo tra l'altro un ragazzo che era la sua prima manifestazione. L'ha messa come transenna, 6-7 persone hanno scavalcato e siamo entrati. Siamo entrati all'interno dell'allevamento. La situazione che abbiamo trovato era terribile, nel senso che molte fattrici molto grosse a fine carriera, diciamo, erano comunque con operazioni appena fatte molto molto lunghe, molto vistose, andavano dalla gola alla pancia, ed erano quelle fattrici a fine carriera che poi vengono usate in modo terminale per altri esperimenti dopo che hanno finito la loro attività riproduttiva. E là c'è stata una situazione di panico in cui molta gente è scappata fuori. Io sono rimasta dentro, ho aperto tutte le gabbie come prima cosa, proprio per farmi schiare in quel momento i cani, perché ogni gabbia aveva dei cartellini con il prodotto selezionato richiesto dalle varie multinazionali farmaceutiche. Scusa se ti interrompo. Puoi spiegare esattamente perché è stato importante in quel momento far mischiare i cani, visto che ognuno aveva un cartellino, eccetera? Perché per loro il prodotto non vale più, questa è la loro logica, no? Quindi facendomi scavare i cani loro non possono garantire al richiedente quella qualità che voleva. È come togliere i cartellini dalle gabbie negli stabulari, e quindi per loro il prodotto non vale più. Allora, la mia idea qual era? Comunque, aprire, e questo è forse l'unico ripensamento in questo momento che io faccio di quell'azione, la mia idea era aprirli tutti, prima di tutto libertà per tutti, uscire da quelle gabbie e poi aprire i portoni in faccia alla gente, di fronte a tutta la gente che non era entrata, in modo che i cani, uscendo, la gente li avrebbe, sarebbe entrata per prenderli. Cosa che non ho fatto, in realtà non ho fatto, anche per un in quel momento non si sapeva bene cosa fare, i cani escono, si è pensato di portarli fuori, di invitare la gente a entrare, quindi ho cominciato a fare la spola su e giù con i cani, portarli fuori e invitare la gente a entrare. Avevo trovato anche dei buchi sulla rete e ho iniziato a entrare, però è stato difficile. Per la prima mezz'ora non è entrato nessuno. E la gente è entrata poi alla fine in modo molto confuso, e io dalle immagini che per esempio vedo dalla polizia, quelle che vengono usate in tribunale, e molta gente entra, esce senza i cani. Questo è stata un po' una delusione, perché 2000 persone portavamo fuori tutti i cani. Allora, cosa succede? La maggior parte delle persone che erano entrate escono, qualcuno in modo estremamente ingenuo, non conoscendo i meccanismi di repressione, corre dai carabinieri chiedendo aiuto. Questa ragazza, per esempio, viene atterrata in malo modo, è fermata, quello è il momento in cui parte la grossa sassaiola contro la polizia. E quindi diciamo che la sassaiola è stata un tentativo di risposta a quest'atto di violenza da parte dei carabinieri. Certo, di solidarietà. Di solidarietà con questa ragazza. Cominciano comunque le spole per chi può, per chi è ancora libero, a portare fuori i cani. A un certo punto il limite è un po' questo, portare fuori le fattrici. Le fattrici, perché sono molto grosse, pesavano più o meno 30 kg. Avevano questi tagli vistosi, quindi il trasporto era estremamente difficile, e se non facendogli anche del male. E quindi io chiedo aiuto alle persone che però ancora non entrano. Tra l'altro le fattrici avevano proprio atteggiamenti di freezing, quindi aprivi la gabbia mentre i cuccioli uscivano giocosi ancora. Le fattrici avevano lo sguardo vuoto. Quando noi veniamo arrestati, io non ho mai visto la gente entrare, la vedo solo nei filmati, quando noi veniamo arrestati la gente entra in massa, e per la gente che io vedo non sono stati portati fuori abbastanza cani, diciamo. Probabilmente era anche una situazione emotivamente molto forte, perché comunque era anche abbastanza traumatizzante vedere certe situazioni là dentro. Veniamo arrestati, le associazioni si dissociano immediatamente da noi, la LAV per prima, per cui alcuni degli arrestati erano nelle corriere organizzate, la LAV richiede che le corriere partano senza i delinquenti, parole testuali, non vengono fuori dal comando dove noi siamo stati portati, veniamo arrestati, portati in carcere la sera, e sappiamo che c'è un sappiamo a posteriori che c'è un presidio fuori giorno e notte, perché noi non sentiamo niente. Io entro immediatamente in sciopero della fame e della sete, non ci danno la possibilità di sentire né familiari né avvocato, perché nel comando ci dicono lo farete quando sarete in carcere, ci dicono non è possibile farlo da qua. In quei due giorni e due notti che noi siamo là c'è i via vai di politici, quindi si presenta la brambilla, si presenta il Movimento 5 Stelle, si presenta il PD, e io chiedo di non voler incontrare nessuno, cosa non possibile, mi dice la direttrice, perché io non scelgo niente là dentro, e quindi c'è questa sfilata continua di politici. Senti, oltre a, diciamo, ai politici che sono venuti in carcere a fare la loro passerella, voi siete stati messi in carcere, se non sbaglio, insieme a... non siete stati isolati, diciamo, stavate con altri detenuti del carcere comuni, tra virgolette. Noi eravamo in corridoio con altri detenuti, certamente, okay. Nelle celle invece siamo stati suddivise, noi donne, in due celle, quattro in una cella e tre nell'altra. Ok. Volevo sapere se c'era stata, abbiamo sentito in passato un'altra delle persone che quel giorno ha subito la repressione in un modo analogo al tuo, e lui ci ha raccontato di una solidarietà abbastanza forte dentro il carcere da parte degli altri detenuti. Quindi volevo sapere se anche voi avevate sperimentato una situazione analoga nel carcere femminile. Allora, sicuramente in carcere abbiamo avuto molta solidarietà, sin dalla mattina presto, dopo il nostro arresto, che non potevamo comunque uscire all'aria perché non eravamo state visitate i regolamenti del carcere, per cui le altre detenute ci portavano la carta igienica che non avevamo, ci portavano le sigarette, ci portavano un goccio di caffè, c'è sempre stata molta solidarietà nei nostri confronti. Sì, sì, no, appunto, era appunto anche per mettere un po', diciamo così, l'accento poi su chi dà la solidarietà in certi momenti, visto che poi voi siete stati etichettati come criminali da parte dei giornali, voi non li potevate leggere perché eravate arrestati, diciamo, per chi poteva leggere i giornali da fuori, voi eravate proprio così, da un lato eravate gli eroi che salvavano, sì, che salvavano i cani della brambilla, dall'altro invece eravate comunque però dei criminali, perché avevate interrotto quello che è poi il processo democratico. Quindi così ero curioso di sapere se anche nelle carceri femminili c'era stata una solidarietà da parte degli altri detenuti e delle detenute, ovviamente, perché diciamo che magari la situazione di criminalità, loro già sono state etichettate come criminali, quindi magari possono anche passare oltre certe scemenze e poi vedere cosa è successo realmente nei fatti. No, c'è stata una situazione di solidarietà che loro sono anche riuscite a sfruttare all'interno del corridoio, perché quando passavano i politici, la nostra cella veniva aperta, le loro restavano chiuse, e loro con i cartelli mettevano i cartelli fuori dicendo, per esempio, la brambilla: anche noi siamo cani, anche noi abbiamo bisogno di essere ascoltati, perché magari c'era gente che provava ad avere un colloquio col direttore per vedere il figlio da 3 mesi e non ci riusciva, no? Per cui è stata comunque una solidarietà in quei 2 giorni da entrambe le parti. Noi abbiamo ascoltato le loro difficoltà, il loro comunque non avere diritti all'interno di quel sistema, e loro hanno sempre supportato noi. Certo. Tra l'altro anche lo sciopero della fame e della sete all'interno di un carcere è una cosa abbastanza destabilizzante, perché poi gli altri detenuti tendono a capire che è un meccanismo che là non è accettato, e quindi c'è stato qualcuno che, per esempio, si è messo in sciopero della fame, e questa cosa per il carcere era difficilmente gestibile. Certo. Luana, scusami, volevo chiederti una cosa. Per esempio, quando arrivano i politici in carcere, se spesso e volentieri sui media arriva soltanto la notizia, diciamo, asettica della visita, che quindi sembra che metta vicino il politico all'ultimo della classe, cioè il detenuto. In realtà che cosa succede quando un politico viene in carcere? Vi hanno parlato? Vi hanno chiesto delle cose? Come si comportano? Un politico vuole che noi riconosciamo che lui è là prima di tutto per gli animali e per noi, e quindi che è una persona onesta, che si interessa realmente di queste cose e che in qualche modo ci tira fuori in cambio di una qualche riconoscenza. Questo è il messaggio che danno. Ho capito. È il teatrino, come lo fanno in televisione, lo vengono a fare in carcere. Certo. Ed è un po' la gara, perché tra Movimento 5 Stelle, PD e Forza Italia le abbiamo sentite tutte in quei giorni. Certo. A questo punto volevo chiederti, poi tu adesso hai affrontato un processo, quindi un'udienza, quindi sei entrata all'interno di un'altra istituzione molto con delle mura molto molto alte, quella del tribunale. Volevo, se possibile, che ci raccontassi l'esperienza da lì dentro, com'è stato e che cosa hai provato anche tu stessa a vivere una situazione del genere. Allora, sì, magari intanto se ci dici quali sono i capi di imputazione, cioè di cosa, allora, siete accusati esattamente. L'imputazione per noi sono violazione di proprietà privata, danneggiamento per 250.000 euro, e che non si capisce su cosa sia stato stimato, perché sembra solo in base strutturale, e quindi reti, porte, via, e furto aggravato, rapina. La rapina viene contestata a chi non è neanche entrato nel lager. Nel passaggio dei cani dalla rete, le persone che li prendevano venivano invitate a lasciare immediatamente il posto, di nascondere i cani e di portarli immediatamente al sicuro. Queste persone sono state fermate in paese e i cani e arrestate. I cani che sono stati portati via, purtroppo, sono stati portati nuovamente dentro Green Hill e ci risulta che siano stati soppressi. Nei giorni successivi, tra l'altro, al nostro ingresso sono stati soppressi moltissimi cani, probabilmente cani che non dovevano in un successivo controllo essere visti. E teniamo conto che comunque Green Hill in 2 anni ha ucciso 6.000 cani all'interno, perché non adeguati ai criteri di vendita. Posso chiederti questi dati, questi 6.000 cani, è proprio una curiosità, come fate a sapere che sono 6.000? Questo viene fuori nel processo contro Green Hill. Grazie. Il processo contro Green Hill, sempre tribunale di Brescia, e il pubblico ministero sempre lo stesso che abbiamo anche noi, si è concluso con delle condanne intorno a un anno e 3 mesi, l'esclusione da questo tipo di lavoro con gli animali per 2 anni, si è concluso e risulta che ci sono state delle morti, delle uccisioni motivate, non giustificate, e dei maltrattamenti all'interno. Questo dato risulta negli atti del processo. Ok. Sì, no, per era esempio, Vai, scusami. Per esempio, cani che avevano la rogna, che era una malattia molto diffusa dentro, non venivano curati. Le soppressioni venivano fatte senza il preanestetico, e tutto questo risulta da email che la Marshall, è la multinazionale americana, una delle maggiori per la produzione di animali da vivisezione, che la Marshall, che aveva comunque acquistato Green Hill, mandava come manuale di istruzioni, per cui cani non adeguati andavano soppressi con la massimizzando il guadagno, quindi poche spese di preanestetico e via. Sì, ci stavi raccontando un pochino del processo, quindi ci hai detto i capi di imputazione. Processo, allora, okay. Al processo, ormai siamo alla quinta, sesta udienza del processo. La prossima, che sarà il 21 settembre, sarà probabilmente quella conclusiva, in cui ci saranno le arringhe degli avvocati e probabilmente si andrà a sentenza. Allora, il processo finora ha visto le accuse, e quindi la parte civile, Green si è costituita parte civile, ha visto la polizia e i carabinieri contro di noi, e poi l'ultima udienza invece è stata le nostre testimonianze. Allora, su 13 persone ognuno ha fatto delle scelte differenti, una parte ha deciso di farsi interrogare. L'interrogatorio verteva più che altro su individuare le responsabilità personali di ognuno ai fini di una pena individuale. E c'è invece chi ha deciso di rilasciare delle dichiarazioni spontanee senza farsi interrogare. Allora, la linea comune di comunque tutte le dichiarazioni che sono state fatte dalle persone è: all'interno abbiamo visto maltrattamenti, abbiamo visto cani che erano già stati visionati dall'interno e siamo entrati per aiutare i cani e riconosciamo tutto quello che abbiamo fatto e l'abbiamo fatto in un modo funzionale a quello che credevamo. Quindi una parte di rivendicazione c'è stata da tutti, anche se questa rivendicazione non è stata finalizzata a una questione più ampia di liberazione animale e comunque non aveva dei connotati di tipo politico strategico, no? Quindi restiamo sul fatto personale, in quell'occasione era giusto farlo, l'abbiamo fatto. E i giornali riportano una velina. Questa velina, allora, non c'erano giornalisti all'interno, la notizia è stata fatta filtrare in un certo modo e tutti i giornali che l'hanno trattata riportano più o meno tre questioni. La questione è che gli imputati si sono messi a piangere, allora si sono messi a piangere nel ricordare effettivamente la situazione, la difficoltà di aiutare tutti i cani che c'erano all'interno e soprattutto questi cani con le cicatrici. Dopodiché comunque ognuno si è ripreso per portare a fine il suo discorso, però ai giornali gli piace insomma questa cosa un po'. Sì, diciamo che i giornali non perdono mai occasione per comunque per portare di dello scandalo, esatto, comunque di qualche lacrima, sì. E altra notizia che si tratta è c'erano le cicatrici e quindi questo nella costruzione mediatica che poi fanno è un po' come dire non stiamo parlando di un atto finalizzato alla liberazione comunque contro ogni sfruttamento, stiamo parlando che là dentro c'erano dei maltrattamenti, quindi loro hanno fatto sì una cosa contro la legge, però hanno fatto di buon cuore con certi fini. E poi l'altra è che tutte queste dichiarazioni e queste lacrime hanno fatto sì che un giudice dicesse addirittura non siamo abituati alle lacrime ma in altri contesti. Quindi questa è un po' la costruzione di una dichiarazione di rottura. All'interno del tribunale non se ne parla, una dichiarazione di rottura a cui il pubblico ministero risponde lei è da misure speciali, e quindi è una dichiarazione che subito ha una misura di richiama una misura di repressione, però di questo non se ne può parlare perché si può parlare di maltrattamento e punire comunque un'azienda per il maltrattamento, non per lo sfruttamento, però non si può assolutamente parlare di una normalità istituzionale, di una normalità che la legge accetta nello sfruttare gli animali, negli ucciderli, nell'usarli in ogni modo che ci fa comodo. Certamente. Adesso sì, no, poi appunto i giornali durante tutta quanta la giornata, ma anche il post giornata, anche ricommentando successivamente anche dopo le udienze, hanno cercato sempre fin dall'inizio di fare di tutto per comunque dipingere la campagna di Green Hill, che ormai comunque era diventata di fama nazionale, tutti sapevano di che cosa stesse parlando, di farla per forza essere una campagna di buon cuore, di lacrime verso i cagnolini, cercando di svuotare qualsiasi tipo di contenuto politico, e quindi è certo quello che poi hanno continuano a fare anche come appunto stavi dicendo tu. Sì, ma basti davvero pensare, se si mettono a confronto la liberazione di Green Hill e la liberazione di topi da farmacologia, sono due cose completamente diverse. E io non mi stupisco della gente comune, nel senso, capisco la gente comune che c'ha il cane e quindi il cane è intoccabile, però il maiale nel piatto non lo vede nemmeno, o il topo per il nuovo farmaco va benissimo. Io mi stupisco del mondo animalista in questo momento, del mondo antispecista, che comunque abbia potuto e continua a supportare una logica di questo tipo. La sentenza contro Green Hill hanno applaudito tutti, e questa sentenza non è nessuna eccezionalità di sentenza. Questa sentenza dice solo: gli animali vanno sfruttati nei modi consentiti dalla legge. Quindi tu ritieni che comunque ci sia una parte di movimento, diciamo, sedicente antispecista, che poi sceglie, diciamo, la strada più breve, quella mediatica, e abbandona un messaggio più radicale? Questo è il problema. È un mondo antispecista che è cambiato negli anni, perché è un mondo antispecista che non credeva in queste possibilità, e nel momento in cui si è mischiato invece con queste possibilità mediatiche, le sta sfruttando in pieno, stravolgendo comunque il messaggio, perché poi i media hanno la capacità un giorno di far andare a picco in borsa la Moncler, ma il giorno dopo di proporti tutt'altro, insomma, uno stile di vita che si fonda sullo sfruttamento. Ma posso chiederti una domanda veramente che forse non ha risposta, però perché secondo te ha preso questa deriva? Perché non è neanche una deriva, come dire, italiana, penso che sia veramente una deriva globale, no? Quello di mettere davanti, come diceva il mio socio, la via più breve, perché evidentemente forse si è presi anche un po' dallo sconforto, no? Di provare la via, come dire, più radicale, non individuare risultati immediati, quindi passare, come dire, al piano B. Non so, secondo me c'è una grossa confusione anche di tipo teorico nel mondo antispecista, nel senso, l'antispecismo per ora è definito da, non lo so, da pochissimi cos'è l'antispecismo. C'è chi parla di antispecismo debole, c'è chi parla di un antispecismo invece con molte più regole, tanto da farne un manifesto. Ognuno si fa il suo antispecismo, però comunque queste idee di antispecismo sono molto confuse, tant'è che all'interno dell'antispecismo si può trovare ormai di tutto, si può trovare anche la destra. È un'idea di antispecismo che è estremamente poco condivisa ed è difficile derivare una pratica dalla tradizione antispecista. In più l'antispecismo è chiuso all'interno di se stesso e non si interseca con altre lotte. Quando parla di nanotecnologie, biotecnologie, sfruttamento delle foreste, dei popoli, del selvaggio, l'antispecismo non si interessa, no? E fa lo stesso errore che fanno gli altri movimenti, dicendo ci sono delle cose più urgenti. Anche secondo me questo è il grave problema dell'antispecismo oggi, e forse anche del termine antispecismo, che tende comunque a chiudere il campo. Ok, bravo. Volevo dire questo, esatto. Interessante quello che dici. Non sento, scusa. È interessante quello che dici, è molto interessante questo, anche analisi del termine antispecismo che tende a chiudere il campo. Infatti poi all'ultimo era l'incontro antispecista, il convegno antispecista di Firenze dell'altro anno, insomma, c'è stato anche un accenno a questo significato del termine antispecismo, che forse andrebbe rivisto in chiave più propositiva e meno, diciamo, esclusiva, perché poi fondamentalmente l'antispecismo, quello, diciamo, più puro, se vogliamo metterlo così, o comunque meno ideologizzato ma più invece idealista, ecco, è quello che apre all'intersezione. Quindi perché non utilizzare anche una parola, un termine che sia più appropriato? Questo era il quesito che è stato posto. Sì, sicuramente in questo momento non è utile. Chi ha fatto le definizioni di antispecismo ci ha voluto mettere dei criteri puramente ideologici, teorici, che sembra giustifichino il termine. In realtà non danno nessuna linea guida, non danno nessuna intersezione con altre lotte, e se noi speriamo di cambiare il modo di pensare, il modo culturale di pensare della gente, senza preoccuparci della velocità tecnologica, di quello che sta succedendo a questo pianeta, a noi stessi umani e agli animali non umani, secondo me abbiamo sbagliato proprio il criterio, o anche comunque ritenere che qualsiasi antispecismo sia sempre pacifista. Non lo so se è vero. Noi ci troviamo di fronte a un'estrema violenza del sistema rispetto a esseri che non si possono difendere, che siano umani o non umani. Io non lo so se realmente si possa davvero dare delle linee guida. Tu sei antispecista solo se sei pacifista. Guarda, lasciamo aperto il quesito magari per una seconda intervista in futuro, ecco, ci piacerebbe poi risentirti eventualmente. Sì, sicuramente ci risentiremo, diciamo, a conclusione con l'udienza di settembre, anche per appunto per tenere alta l'attenzione sul vostro caso, visto che comunque poi tu non ce ne hai parlato, però comunque immagino che la pena per tutti i reati di cui siete accusati, laddove dovessero essere accolte diciamo così le richieste del pubblico ministero, si potrebbe trattare anche di pene gravi, insomma. Ma io, se posso dare delle anticipazioni così proprio a pelle, secondo me il caso vuole essere chiuso in modo molto leggero. Okay. E questa è stata anche la forza che ho voluto imprimere con la mia dichiarazione. Nel senso, loro vogliono dire una cosa, vogliono dire, li abbiamo condannati. Qua si è mossa, non solo tutta Italia, ma un po' tutto il mondo in solidarietà a questa azione qua. È difficile in questo momento dare delle pene più grosse a chi ha liberato che a chi ha ucciso e maltrattato, quindi io su questo sarei abbastanza tranquilla rispetto alle pene che verranno date. Quello che io dico è, a me non interessa affermare più questa azione giustificata dei maltrattamenti che c'erano scritto sul comunicato. Poteva essere un macello, poteva essere un allevamento di visoni, non cambia nulla. Il problema è che gli animali là erano reclusi. Io credo che la mia dichiarazione sia stata fatta scorrere come se non esistesse, proprio perché si cerca questa tranquillità di chiudere le cose nel miglior modo possibile. Al pubblico ministero è scappato in un'udienza precedente una cosa: state tranquilli per qualche reatuccio che avete commesso. Questo è il senso che vogliono dare, che è un senso estremamente politico. Certo, certo. Quindi io sono contenta che la mia dichiarazione comunque stia girando, e stia girando molto, proprio perché vogliamo rilanciare che questo non è stato un fatto emotivo del momento, non è stata Striscia la Notizia che ha fatto questo. Certo. L'azione diretta rispetto a queste situazioni di sfruttamento terribile è comunque una strategia che va presa in considerazione, e la rivendicazione di questi atti come atti giusti va fatta. Scusa, un'ultimissima cosa prima di salutarci. Volevo chiederti, in vista anche dell'udienza di settembre, giusto, dicevi, state sentendo comunque supporto, solidarietà, state ricevendo vicinanza o, come dire, siete lasciati allora, da soli? No, io sto ricevendo più solidarietà dall'estero. Per esempio a Los Angeles c'è il Museo della Liberazione Animale, dove mi hanno richiesto molto materiale, io ho dato tutto quello che era in mano, tutti i video della questura e via, e sono stata invitata molto in Inghilterra, in America, e la solidarietà dall'estero la sento di più. In Italia la solidarietà la sento dopo questo comunicato qua, e con gente che appoggia, che mi dice hai toccato le nostre coscienze, questo comunque mi fa piacere. Però come solidarietà al processo, e questa è la cosa che io critico abbastanza, a parte Animal Amnesty, che prima era Occupy Green Hill, il gruppo di Piercarlo dove c'era la Brambilla, loro sono sempre presenti alle udienze, altri non li abbiamo visti. e il coordinamento fermare Green Hill, che sono quelli della liberazione di farmacologia, quelli imputati per il tetto. Io ho chiesto anche a loro di fare una linea comune di rivendicazione dei due processi. Questa cosa non c'è stata. È come se chiusa la storia Green Hill, i cani sono stati liberati, la struttura ha chiuso, hanno fatto enormi campagne rispetto a far passare, come si chiama, quella europea. Sì, sì, la direttiva europea. Sì, sulla vivisezione. Sì. E non capendo neanche di cosa si trattava, insomma. È come se loro avessero raggiunto l'obiettivo. L'obiettivo non è quello, non è solo la chiusura di una struttura, in modo così popolare, tra l'altro. L'obiettivo è anche sostenere le persone che comunque stanno pagando, è comunque anche rilanciare, è comunque anche aprire oltre ai cani, oltre a Green Hill che ha fatto grosso rumore, aprire rispetto al mondo dei macelli, aprire verso tutti quegli animali di cui facciamo tutti i giorni uso e la gente non li mette minimamente in discussione. Quindi l'assenza completa del mondo antispecista, della solidarietà rispetto a questa situazione qua, io la critico molto. Certamente. Senti, allora, se non hai altro da aggiungere, noi ti ringraziamo per il tuo contributo. Abbiamo letto nelle scorse puntate anche la tua dichiarazione, che speriamo sia di ispirazione per molti e molte. Rilanciamo anche il tuo invito alla solidarietà, alla partecipazione.